9 in punto, la versione di Oscar. Oh, cari ascoltatori, buon giovedì 10 maggio, auguri a coloro che si chiamano Alfio. Allora, rapidissimo flash dell'Europa per farvi capire che i DOR sempre di più servono, perché stiamo andando a nuove elezioni greche, e le nuove elezioni greche sono l'ingresso ufficiale, da ieri ufficiale con le dichiarazioni delle fonti tedesche, della uscita dall'euro per la Grecia. Chiaro quello che vi sto dicendo? Uscita. Naturalmente ci metteremo settimane per arrivare, però io mi prendo la responsabilità di iniziare la trasmissione oggi, Sant'Alfio, giovedì 10 maggio, dicendo che il tema è ufficialmente al centro dell'agenda europea. Quindi prendete le cinture di sicurezza, e se vi rimane qualche buco intorno al girovita, perché la cinghia l'abbiamo tutti stretta fino all'inverosimile, beh, stringete ulteriormente, perché si ricomincia a ballare. Questo perché? Perché colui al quale dopo le lezioni greche sono state affidate, non è questo il tema della giornata, ma mi sembra una maniera di quelle adrenaliniche per cominciare, insomma, per farvi capire che viviamo in un mondo che è una grande montagna russa. Quindi quando c'è la velocità che, come le mie parole adesso, si è rallentata, è solo perché si è in cima a un enorme precipizio, per cui poi si scende sempre più rapidamente. Ed è così, purtroppo, la cronaca dell'Europa. Da che dipende questa faccenda? Che il signor Alexis Tsipras, che è il leader del partito Syriza, il partito Syriza è quello che si è piazzato al secondo posto nelle elezioni domenica scorsa in Grecia dopo i conservatori, quindi è colui che ha preso i 30 punti percentuali che hanno perso i socialisti del PASOK, e Alexis Tsipras, che secondo la Costituzione greca è quello che ha dovuto formare come secondo incarico il governo, e naturalmente non ce la fa neanche lui punta a vincere le elezioni, è sicuro che andando a votare lui guadagna molto i voti, e quindi punta alle elezioni, e punta alle elezioni però dicendo basta la stagione del rigore. E di fronte a questa bassa stagione del rigore, che serve, perché servono altri 11 miliardi di tagli in Grecia per la tranche che deve arrivare a giugno, e che fa parte della seconda grande tranche da 150 miliardi dopo la prima da 110 miliardi della Grecia, le fonti ufficiali tedesche ieri hanno detto: quando è così si finisce tutto, non vi si danno più aiuti. Ieri l'ha detto Guido Westerwelle, quindi il ministro degli esteri, che ha chiarito che la possibilità per la Grecia di rimanere nell'euroarea è solo alle condizioni già stabilite. Naturalmente è ovvio che il rischio di insolvenza greca è oggi molto più basso di quanto fosse mesi fa, perché le banche europee hanno disintermediato i titoli che avevano, ma il problema è che una volta che è chiaro che quella è la china per gli euro deboli, è come le ciliegie, capite? Cioè la speculazione ricomincia altissima, flussi di capitale iniziano a uscire verticalmente dalla Spagna. In Spagna intanto ieri è ufficiale, si è andato alla nazionalizzazione del gruppo Bankia, cioè le 7 casse di risparmio vicine al Partito Popolare, che non stanno in piedi perché Deloitte si era rifiutata di firmare un valore degli asset di queste 7 casse di risparmio, dicendo che era sopravvalutato di 3,5 miliardi di risparmio particolare sul paese. Trovate tutto. E questa notizia, diciamo così, dell'agenda ufficiale europea che prende questa piega aumenta di interesse il piano di quegli investimenti di Monti, che trovate oggi annunciato su molti quotidiani, il Corriere della Sera, il Messaggero. Un piano del quale, e mi fermo qua, mentre sono sempre molto forti le tensioni tra le prese della maggioranza e il governo, mentre ieri per fortuna il ministro Fornero ha per la prima volta ammesso di sentirsi in qualche misura responsabile delle tensioni sociali create su vicende come gli esodati o come su questo balletto dell'IMU che ha terrorizzato gli italiani, per fortuna ci sono cambi di tono quindi anche nel governo, ma ci teniamo a dire, per la campagna che purtroppo continua con moltissime lettere che arrivano a disperatimai@radio24.it, uno dei punti più delicati, cioè quello del pagamento da parte dello Stato dei suoi debiti commerciali e dei crediti IVA, che sommati fanno 100 miliardi, il ministro Passera, con tutta la sua buona volontà, ha annunciato ieri un meccanismo che resta prosolvendo e non prosoluto. Abbiamo spiegato tante volte la differenza, e e che dice che in un 2-3 anni avvia per una ventina di miliardi su 100 i pagamenti. La gradualità è quello che non va molto bene di questo piano. Io trovo apprezzabile l'impegno, ma il problema è che invece continua a dire c'è un meccanismo che è prosoluto e non prosolvendo, quindi non lascia le imprese esposte verso le banche, primo; secondo, che non garantisce le banche attraverso il fondo di garanzia come questo meccanismo che sta varando il governo, ma che invece garantisce lo Stato da non pagare, perché deve restare lo Stato responsabile verso le banche utilizzando i fondi di Cassa Depositi e Prestiti. Questa via alternativa che noi abbiamo ufficialmente proposto resta senza ascolto, perché è ovvio, Ragioneria e Cassa Depositi e Prestiti vogliono rimanere sovrane dei loro fondi e respingono al mittente l'accusa che uno Stato che non paga i suoi debiti non sia uno Stato ladro, oltretutto in un momento dell'economia italiana così dura come questo, e mentre le cronache europee, ripeto, torneranno inevitabilmente a infiammarsi. Allora, di fronte a questo noi vogliamo partire da una vicenda che qualche settimana fa è comparsa sui giornali italiani, per lanciare un'altra proposta alternativa di come si può articolare, sia pure nel quadro di tutte queste difficoltà e con lo spread che ieri avete visto è tornato sopra i 420 punti e che secondo me risale nelle prossime settimane abbondantemente, per in questo quadro difficile tentare di trovare soluzioni subito, rapide, per evitare la decrescita italiana. Ricorderete qualche settimana fa una vicenda che ha riguardato uno dei marchi storici che accompagnavano gli italiani da sempre, un'impresa radicata nella storia del nostro paese, prima che il nostro paese fosse unitario in realtà, e radicata nel nord-est e a Trieste, ed era la Stock, ricordate, Stock 84, che ci ha sempre accompagnato nel boom degli anni 60 con grandi campagne pubblicitarie, televisive. E la Stock che se ne andava perché dice: l'Italia non posso più stare per i suoi costi, per le sue tasse, e se ne andava oltre frontiera all'est. Allora partiamo un secondo proprio da questa vicenda, perché oggi invece viene lanciata una controproposta per evitare che molte altre aziende seguano questo esempio. Ce ne sono tanti altri. Anzi, facciamocela prima raccontare rapidamente da un giornalista del Piccolo, Pietro Rauber, la vicenda dello Stock, che nel caso in cui i nostri ascoltatori non la ricordassero. Buongiorno e grazie a Pietro Rauber innanzitutto. Buongiorno, grazie a voi. Allora, una notizia che è venuta fuori all'incirca un mese fa ormai qua da noi, la proprietà della Stock, che non è più italiana, dal 95 era tedesca, ma dal 2007 è passata nelle mani di un fondo americano, quindi non un'attività industriale, bensì un'attività finanziaria, è stato deciso da questa proprietà di delocalizzare anche la produzione, dopo che nel 2008 era stata delocalizzata l'attività commerciale amministrativa a Milano, e quindi da giugno dovrebbe esserci il trasferimento, il trasloco anche della produzione in Repubblica Ceca, a Pilsen. E ahimè, naturalmente è una storia, seppur cambiando la bandierina proprietaria, però gli impianti erano rimasti qua ed era molto cara agli italiani. Le giustificazioni, naturalmente, Pietro, sono state le giustificazioni di rigore. Le giustificazioni sono quelle che non, da un punto di vista di business plan, non sta più in piedi la produzione qui in Italia, insomma, rispetto a quello che si può fare alle medesime condizioni in un altro paese, ancorché dell'Unione Europea, lo ricordiamo. Diciamo che per Trieste è la perdita di un gioiello di famiglia che si può dire che abbia un valore più affettivo ormai che economico, perché stiamo parlando di 28 persone più due dirigenti. E infatti è semplicemente un simbolo che crolla. Quando crollano i simboli, un'epoca è finita. E naturalmente, nel 1884, quello che si sentiva per TV dava la data della nascita, 1884, esatto. Quindi 128 anni. Allora, proprio di fronte a situazioni come queste, poi ci torneremo sopra, perché in questi anni, di fronte alla rapidità del deterioramento dell'economia italiana, alla esosità delle pretese aggiuntive del fisco italiano, di uno Stato che non paga i suoi debiti, che non è in grado di liquidarti i crediti IVA, che ti complica molto la vita, delle banche che ulteriormente hanno visto aggravati i propri problemi, del fatto che tutti sono diventati cattivi pagatori, di fronte a questo naturalmente ci sono stati confinanti tutti, pensate solo all'agenzia della Carinzia che non fa altro che organizzare attività in tutto il nord per spiegare alle imprese come sia conveniente passare la frontiera e andare lì, ed effettivamente lo è inutile che diciamo di no, lo stesso fanno i cantoni svizzeri. Di fronte a questo oggi il presidente dell'autorità portuale di Trieste lancia un'idea: invece di assistere a tutto questo a braccia concerte, un'alternativa è possibile, ed è alternativa possibile pensando anche a quello che altri hanno fatto in Europa. Noi tante volte l'abbiamo annunciato, ma in realtà non siamo mai riusciti a farlo. Abbiamo con noi Marina Monassi, che è il presidente dell'autorità portuale di Trieste, che io saluto e ringrazio. E presidente Monassi, questa idea in che cosa può consistere? Buongiorno intanto e grazie dottor Giannino di averci dato la possibilità di uscire. L'autorità portuale di Trieste nell'ultimo anno ha sviluppato in controtendenza un aumento di traffico spaventoso, 50,12% solo di tonnellate trasportate in contenitori, per non parlare di passeggeri delle merci varie. E non dica spaventoso, dica che è bellissimo, perché se dice che è spaventoso ci preoccupiamo. Finalmente quando ci sono notizie positive tentiamo di dirle. E non vengono date. Ecco, una notizia meravigliosa, ecco. Sì, quindi ci siamo raccolti tutti con la Camera di Commercio e le imprese, ci siamo guardati e abbiamo deciso di tirar fuori dal cilindro quello che non è mai stato realizzato appieno dal 1947 al Trattato di Pace, il cosiddetto punto franco del porto di Trieste. Era una clausola, un articolato particolare che doveva salvaguardare quello che era il porto di allora e che è stato attuato in minima parte sul caffè e sui metalli, quasi timidamente e quasi di nascosto. Nel 2005 avevo fatto un giro, nel mio precedente brevissimo mandato, di alcune zone franche come Dubai, una zona franca all'interno di Luxor, Tangeri, e mi sono incominciata a chiedere: ma perché noi no? Cos'è che ci dobbiamo nascondere? E abbiamo deciso con le imprese che non avevamo più niente da perdere, ci siamo presentati ieri, l'ascolto del Parlamento è stato molto forte, erano presenti il Presidente della Commissione Senato Grillo, con il Presidente della Commissione Trasporti della Camera che ha chiuso con noi Valducci, presente il Ministro Clini, presente la Banca Pallenzone, insomma tutte le imprese presenti. Ci abbiamo presentato con gli esperti, il Professor Maresta, cosa potremmo fare per attuarlo meglio. Abbiamo ascoltato quattro imprenditori, tra cui la Cosnav. Nell'isola di Man c'è un sistema particolare per la tonnal tax, cosa si può fare per le manipolazioni estero per estero senza dazi, e tutta una serie di cose che presenteremo con un articolato specifico al governo, io penso in questo scorcio di mese. Allora, Presidente, ma lei non teme l'accusa di qualcuno che in Italia siamo poi alla fine sempre così, la competizione tra sistemi territoriali porta sempre ad accrescere la parte di sgambetto reciproco invece che il conto della reciproca convenienza, che se vanno bene i porti del sistema del nord Adriatico come quelli del nord Tirreno, in realtà noi dreniamo flussi di trasporto da tutto il resto del mondo e soprattutto li facciamo passare dalla parte mediterranea invece che dalla parte nord europea, quindi tutti dovrebbero pensare di guadagnarci, però si sa com'è l'Italia, qualcuno pensa sempre già siete furbi voi, siccome avete un vecchio trattato allora voi volete avvantaggiarvi. Noi li abbiamo fatti per il sud, perché ricordo tutti che le aree franche fiscali erano un'idea lanciata dai governi di centrodestra anni fa, naturalmente annunciate, straannunciate, messe nelle finanziarie, non si è fatto il resto di un piffo, però come ovvio sono le classiche politiche di annuncio. Ma nel vostro caso, Presidente, perché so che poi ci deve lasciare, che cosa come risponderebbe a chi dice dal resto d'Italia, dagli altri sistemi portuali, dagli altri sistemi di trasporto e logistici, adesso vi facciamo porto franco a voi e noi no? Noi siamo, lo eravamo già, siamo una zona di confine, a 8 chilometri c'è la splendida Slovenia, a 80 l'Austria, cioè è impossibile non considerare tutta una serie di variabili. Abbiamo pochi moli, perché alla fine il sistema portuale italiano sono porti che in confronto a quelli del nord sono piccoli, che solo facendo sistema diventiamo grandi un po' tutti quanti, e forse ci dobbiamo ricordare che apparteniamo tutti allo stesso paese che è l'Italia. Ecco, mi sembra una buona risposta, perché la mia opinione è che sulle aree di confine, cioè laddove, come ovvio, la parte di attrito e di competizione tra ordinamenti così diversamente capaci di essere efficienti, come sono quelli tra noi e la Slovenia, pensate ai flussi di, per esempio, di traffico turistico marino che abbiamo regalato grazie alle nostre tassazioni sulle barche, che naturalmente, lo so, molti di voi che ci ascoltano sono molto popolari, perché l'idea è che le barche sono la ricchezza. No, le barche dovrebbero essere considerate la ricchezza per un paese che fa turismo, mentre invece se noi mettiamo le tasse di stazionamento e le tasse, semplicemente regaliamo ai nostri amici che ringraziano e ci battono le mani naturalmente tutto ciò che insiste sull'economia dei porti turistici. E poi pensate a quando hanno ordinamenti fiscali come quelli oramai molto competitivi che sono ai nostri confini. Io penso che occasioni come queste, che rilancia, e bisogna ringraziarla secondo me Marina Monassi, presidente dell'autorità portuale, sono una maniera per tentare di metterci delle cinture fino a che non riusciamo a cambiare tutta la politica economica nazionale, ma esattamente nell'area di confine. E questa è la forza di questa idea, secondo me. Allora, mentre io saluto, perché poi ci deve lasciare, ma noi continueremo esattamente con Maurizio Maresca, che insegna diritto internazionale all'Università di Udine, esperto di diritto europeo dei trasporti, ed è un po' una delle menti dietro questa idea, e poi ne parleremo con Bruno Dardani, che è il mio consocio in capo ORN, perché noi siamo anche un po' dietro noi a lanciare e aiutare a lanciare questa idea di oggi. Mentre io saluto il presidente Marina Monassi, voglio e chiedo invece a Pietro Rauber di rimanere con noi, voglio leggere una notizia di quelle che mi fanno pensare che noi dobbiamo continuare ad andare avanti nella nostra polemica e nella nostra campagna di disperati mai degli imprenditori, al di là e al netto delle polemiche sui suicidi. Ieri mi sono trovato in un convegno organizzato da Rete Impresa Italia, dalla fondazione di Rete Impresa Italia, lo sapete, il grande ombrello che ha raccolto insieme all'organizzazione del commercio e dell'artigianato, e quindi c'era il presidente Delita, che è il presidente della fondazione, che ha un pochino benevolmente rimproverato chi tende a far credere alla gente che ci sia un'informazione un po' spettacolo, ha detto ci sia chissà quale innalzamento del numero dei suicidi e ci sia questo fenomeno di grande rottura della piccola impresa. Allora, siccome io parlo sempre di questa frattura del capitalismo molecolare, sia pure con grande gentilezza Derita non mi ha citato, ma un pochino credo che ce l'avesse anche con me, e io ho risposto: guardate, gira molto sulle mail in questi giorni un documento lanciato da ricercatori che sono scettici sul fatto che sono gli imprenditori e che dicono è un falso che ci sia un innalzamento, è un falso che ci sia un boom enorme, ma le cifre dicono che l'aumento c'è. Loro dicono ma nel 2009 era diminuito, siamo nel 2012, anzi no, perdonate, nel 2010 era diminuito, siamo nel 2012, e infatti la mia tesi è che questa crisi è più grave di quella del 2008-2009. Comunque l'innalzamento c'è, ma il problema non è quello, non è che l'innalzamento, se è del 4% sul totale, è un innalzamento poco rilevante e quindi è sbagliato parlarne. Il problema è che è rilevante parlarne, perché il fatto che si spezzi l'idea che valga la pena vivere quando si perde la dignità e l'onore per motivi economici è a fronte di un aumento, anche quello, dice, attenti a non sovrastimarlo, di un aumento dei fallimenti delle piccole imprese, e anche lì siamo aumento dell'8% di quelle delle imprese di costruzioni. L'8% anno su anno, secondo voi, non è un aumento rilevante quando siamo reduci da più 6, più 7, più 8 negli anni precedenti? Io ieri sono un po' sbottato, ho detto: a che punto dobbiamo arrivare di aumento dei fallimenti, di aumento dei suicidi, perché non ci chiediate di stare zitti, perché altrimenti stiamo esagerando? Ecco, questa è la mia banale opinione. Allora vi leggo questa notizia, una notizia che leggo dall'Arena, l'Arena di Verona, titolo: deve 5 euro, multa da 5.000, da 5.000, un piccolo imprenditore che si chiama Silvano Pelosato, che mostra la cartella di riscossione per la quale per una 5,41 euro che mancavano al versamento delle proprie tasse ha ricevuto una cartella di 5.793,35 euro, e la sua dichiarazione è: non la pago, non la pago, non la pago. Voglio dire che finché vedrò cose di questo genere, io penso che si debba tenere aperti i fari, e noi continueremo con la nostra campagna. E io sono sempre più convinto della mia idea di lanciare una specie di campagna per costruirlo, questo memoriale dal basso, costruiamolo noi, un bel memoriale per le vittime del lavoro che non c'è, dell'economia che non funziona, mettendo insieme i nomi dei dipendenti che purtroppo fanno gesti sconsiderati perché perdono il lavoro, non sanno come trarre avanti la famiglia, di coloro che muoiono per incidenti sul lavoro, perché li metto tutti sullo stesso piano, e poi di coloro che fanno la follia di spararsi e impiccarsi perché lo Stato non ti paga, perché le tasse aumentano, perché le banche hanno la restrizione del credito e perché le cose vanno di male in peggio e tutti non ti pagano più. Eccoci qua, tornati in studio in questo giovedì 10 maggio. Siamo partiti da una notizia che qualche settimana fa ci ha rattristato: la Stock, grande marca Stock, nata nel 1884 quando Trieste era Imperial Regia sotto l'Austria, italiana fino a pochi anni fa, poi la proprietà era diventata internazionalizzata, gli stabilimenti lì erano rimasti in realtà sempre più ristretti, ma insomma la chiusura finale per andarsene in Slovenia all'est, dove ci sono meno tasse e meno oneri. L'idea oggi, che ci ha appena illustrato il presidente dell'autorità portuale di Trieste, Maria Monassi, di tornare a sfruttare una possibilità che deriva dalla natura particolare internazionale di Trieste sulla frontiera di sicurezza alla fine della seconda guerra mondiale tra est e ovest, e quindi sulla natura di Porto Franco, un'idea che in realtà l'Italia non è mai riuscita, quella di aree franche per lo sviluppo, a puntare i piedi in Europa e a ottenere per sé il riconoscimento di Bruxelles, mentre invece ha fatto parte, diciamo così, delle strategie di sviluppo di paesi come l'Irlanda, e che ne hanno moltissimo beneficato. Tentiamo di spiegare meglio col professor Maurizio Maresca, che insegna diritto internazionale all'Università di Udine, e con Bruno Dardani, che è direttore della rivista di Cap Horn, che cosa questo potrebbe voler significare. Innanzitutto, quando si dice Porto Franco, professor Maresca, qual è il significato concreto, per far capire a chi non ha idea e ci ascolta da casa, non è esperto naturalmente di ordinamenti tributari e del diritto internazionale, che cosa può volere concretamente dire? Ma il Porto Franco, buongiorno, il Porto Franco di Trieste ha alcune caratteristiche sue peculiari. Mentre la zona franca in generale, o la free zone come spesso si definisce, è una zona dove c'è una situazione di esenzione fiscale sia di imposizione diretta che di imposizione indiretta, e questa è un po' la tradizione delle free zone internazionali che in Italia non sono presenti, il Porto Franco di Trieste ha due caratteristiche di fondo. La prima è un'area che è sostanzialmente aperta al libero accesso a quest'area portuale, sia a porto, sia a tutte le infrastrutture che collegano il porto, quindi per intenderci anche autostrade e ferrovia, cioè ci possono arrivare tutti senza alcuna discriminazione e senza dover pagare alcun tributo. Una sorta di regime, diciamo, comunitario di liberalizzazione ante litteram previsto da questo trattato, che è il trattato di pace del 1946. Secondo contenuto è assoluta esenzione sotto il profilo doganale, nel senso che le merci che vengono trattenute all'interno del Porto Franco e che vengono lavorate da imprese industriali che operano in Porto Franco non sono soggette ad alcuna imposizione né doganale né accise. Quindi due contenuti: libera circolazione e libero commercio, e dall'altra parte nessuna imposizione doganale. E professore, dal punto di vista dell'adozione di questa proposta, gli atti nell'ordinamento italiano e quelli preventivi o contestuali invece da concordare in sede europea, quali potrebbero essere? Ecco, anzitutto è da precisare questo, che trattandosi di un trattato internazionale precedente al trattato istitutivo della Comunità Economica Europea, allora Comunità Economica Europea del 1957, il trattato del 1947, il trattato di pace, essendo precedente, quel regime lì sfugge alle norme comunitarie, perché all'interno del trattato istitutivo della Comunità Europea c'è una norma che dice che i regimi previsti dai trattati precedenti vengono fatti salvi. Quindi questa è l'unica situazione in Italia che dove un regime, quello del Porto Franco di Trieste, potrebbe continuare a produrre i suoi effetti diciamo, anche differentemente da quello che successivamente ha disciplinato l'ordinamento comunitario. Eh beh, non vedo perché non approfittarne, quindi basterebbero atti italiani. Certamente, perché questa è materia che in qualche modo supera l'ordinamento comunitario in virtù proprio di una norma espressa contenuta nel trattato esecutivo della Comunità Europea. Rauber, per Trieste, diciamo, rilanciare questa proposta e soprattutto la possibilità, visto che non ci dovrebbero essere nessun tipo neanche di trattative preventive, come ci ha spiegato il professor Maresca, con l'Europa, che cosa potrebbe concretamente rappresentare in termini di ricadute? Ma onestamente è difficile da dire. Io devo fare però una premessa. Questa proposta è sicuramente una proposta molto, molto importante da tenere d'occhio, però va a incunearsi in una storia di Trieste. Il presidente Maresca lo sa bene, essendo stato anche presidente dell'autorità portuale, una storia che a Trieste è piena di proposte mai andate a fine. Ritengo soprattutto per scarsa volontà politica e per scarsa capacità di intesa politica. E quindi lei dice, benissimo, una nuova idea, però di qua a farci una scommessa sopra, vedere per credere. Abbiamo viste tante, non lo so se non sia anche un problema di interlocuzione rispetto a Roma, perché qui il problema è poi naturalmente questo più che altro. Dardani, dal punto di vista dei flussi portuali, del sistema portuale e del sistema di commercio italiano, fare tornare a pieno regime con l'idea di un porto franco come quello, visto che gli accordi internazionali persistevano a quelli europei, cosa potrebbe voler rappresentare? Oscar, grazie per chiedermi una questione di questo genere, perché io vorrei rispondere con una data: 1719, l'impero austro-ungarico, quando decise che doveva entrare nell'economia globale e giocare un ruolo importante, fece il porto franco a Trieste. Oggi ci troviamo in una situazione analoga. È vero, il mio collega del Piccolo ha sollevato un problema: perché non l'ha fatto prima a Trieste? Aveva da 50 anni, da 60 anni questo strumento a disposizione e non l'ho utilizzato. Oggi ci sono probabilmente le precondizioni, perché Trieste è un hub naturale per entrare nella Europa centrale e per proiettare l'Europa verso l'Europa orientale e quindi verso le aree a maggiore sviluppo del PIL di questo nostro disastrato continente. Allora, iniziamo a vedere delle telefonate. Abbiamo una chiamata di Renzo da Imperia. Prego, Renzo. Buongiorno Oscar, io chiamo dalla provincia di Imperia. Volevo tornare per un attimo su quello che è il discorso delle zone franche, perché noi imprenditori, io sono un piccolo imprenditore della provincia di Imperia, che ha anche sviluppo su 20 miglia, siamo stati coinvolti quando il ministro Scajola annunciò in pompa magna zona franca a 20 miglia, inserita tra le zone insieme alle altre zone franche che erano state promesse in Italia. Questo comportò dei noi, vennero organizzati convegni, ci invitarono a strutturarci per poter usufruire poi di questa zona franca che nell'arco di un paio d'anni sarebbe stata operativa. Questo ha comportato dei serissimi problemi, perché gli affitti di quella zona sono schizzati alle stelle per quanto riguarda le strutture commerciali e industriali, e oggi ci troviamo ad avere degli immobili in quella zona che praticamente, essendo disatteso il discorso della zona franca, sono diventati praticamente inutilizzabili. Quindi Renzo, diciamolo chiaro, Scajola va preso in giro. Ci ha preso in giro tutti, questo è stato un serbatoio di voti importante per lui, e ha preso questi voti e si è comportato ancora una volta come si è comportato il PDL in altre occasioni. Io sono un elettore del PDL che non voterò più. Ma Renzo, io volevo semplicemente portare questa piccola testimonianza. Io ti ringrazio, perché quando poi dico che 17 anni di promesse non mantenute si pagano ed è giusto così, e mettono in difficoltà chi come noi tenta di fare impresa e di difendere poi l'idea di un mercato competitivo. Certo, vedete, certo, il problema certo, non è che Stock se ne vada, perché io difendo la libertà delle imprese di andare poi dove in realtà è più conveniente andare. Il problema è di un paese che non capisce, che fa tutto per rendere impossibile alle imprese di restare, tutte quelle che vogliono restare. La spina dorsale dell'impresa italiana vuole restare qua. Ma certo, se noi continuiamo in questo, la destra uguale alla sinistra, a aumentare la spesa, aumentare le tasse e a dire ragazzi non ce n'è, beh, lo Stato mica potete pretendere che paghi i suoi debiti, ma lo Stato mica potete pretendere che compensi i suoi crediti fiscali. Ecco, di fronte a polemiche, a politiche di questo tipo, io dico che purtroppo Renzo ha ragione. Infatti io lo ringrazio per averci chiamato, perché come il collega Pietro Rauber del Piccolo tende, lo avete sentito, di fronte alla proposta che viene dall'autorità portuale di Trieste, dire mettiamo in guardia i nostri ascoltatori, i nostri lettori, perché ricorrentemente la politica italiana fa questo. La differenza è che in questo caso non è la politica italiana a farlo, sono le autorità del porto di Trieste, che secondo me di fronte a un aumento del flusso di traffico e di fronte al fatto di poter rappresentare un'intercettazione di flussi ancora più elevata, fa una proposta che a me sembra responsabile. Cioè la politica dietro non c'è, per una volta. Però bisogna ricordare che la politica tante volte ha fatto queste promesse e mai le ha mantenute. Come, secondo me, dalla righetta che vedo, anche Cristoforo dalla provincia di Catanzaro è pronto a confermare. Cristoforo, la tua opinione e esperienza qual è? La nostra esperienza è, abbiamo dei decreti governativi sulle zone franche della Calabria. Nella fattispecie la Lamezia Terme, anche il comune si è impegnato, ha investito delimitando una bella area a ridosso dell'autostrada, ma qui oggi è tutto bloccato, la politica è assente, non interviene su questo discorso. Anche la concertazione con il porto di Gioia Tauro, la vetrina sul bacino del Mediterraneo, sarebbe importante per incrementare e darci una spinta ad investire. Noi abbiamo rallentato, abbiamo già bloccato un'area nel comune di Lamezia, ma siamo fermi perché c'è incertezza, come noi decine e decine di altre imprese. Qui la gente comincia, chi lavora comincia anche a trasferirsi nella vicina Tunisia. Abbiamo esperienze anche in associazione industriale. Sì, sì, sì, ne abbiamo parlato due volte, infatti, di imprese italiane del sud che si sono trasferite in Tunisia. Possiamo confermare, anche in un quadro politico che è quello, dopo le elezioni tunisine, della vittoria di un partito Ennahda, che è un partito islamista, recita molto il suo leader, diciamo, la parte del non eccessivamente filo islamista, ma insomma tutto il quadro nordafricano è un quadro un po' preoccupante. Però possiamo confermare che anche dal nostro osservatorio è come dice Cristoforo, cioè incredibilmente, ma non troppo, ovviamente le imprese vanno dove ritengono di avere non solo costi e fisco più favorevole, ma anche avere un mercato più favorevole. Questo poi è il punto vero. Eccoci qua per il nostro This is the End, rituale in attesa domani di un altro Consiglio dei Ministri con nuove misure per il rilancio dell'economia proposte dai ministri di spesa coordinate da Corrado Passera, probabilmente già domani in Consiglio dei Ministri, meglio così che niente naturalmente, però ripeto, i due decreti sblocca pagamenti a mio giudizio sono gravati da un difetto di fondo e mi auguro che le associazioni di impresa, che naturalmente immagino saranno tenute ad avere un tono istituzionalmente di apprezzamento di queste misure, sappiano anche dire però che la gravità di quello che succede nella pancia, nella tenuta della piccola impresa italiana imporrebbe invece che il signor ladro Stato pagasse tutti i suoi debiti, perché può farlo senza fare deficit, e se non lo vuole fare per tenere risorse in cassa, allora a maggior ragione bisogna affondare il coltello sulle sue di spesa, non solo su quelle dei cittadini. Allora, professor Maresca, lei è stato ricordato prima, è stato anche in precedenza, è stato anche lei presidente dell'autorità portuale. Come si vede l'esperienza italiana, sia pure di area franca, non di Porto Franco, perché qui bisogna ricordare siamo nell'ambito di una qualifica, di una qualità e di diritti che vengono incardinati in accordi internazionali diversi da come la politica ha sbandierato le aree franche che poi non ha realizzato. Ma in questo caso, secondo lei, perché a Trieste questa caratteristica è venuta un po' meno? Ci si è creduto troppo poco rispetto al quadro di accordi da cui discendeva? Ma no, essenzialmente c'è stato un cambiamento, direi epocale, proprio nelle modalità del traffico internazionale. Non dimentichiamo che il traffico internazionale dagli anni 50 in poi, anzi forse anni 60 in poi, l'avvento del container ha cambiato completamente le cose. In quel momento lì, cioè nel momento in cui è avvenuta la containerizzazione, quindi nel momento in cui l'efficienza si misura sulla velocità di riconsegna della merce e non più sul fatto che la merce rimanga a beneficiare del regime doganale di sospensione, il fatto di non avere preso atto che cambiavano le cose, questo ha determinato che la Repubblica italiana non ha dato attuazione nei modi nuovi che erano necessari al regime internazionale vigente. E questo è il tema oggi. Il punto che pone oggi l'autorità portuale di Trieste oggi è quello di valorizzare il trattato del 47 e quel regime speciale, dandovi attuazione in una logica di 2030, non nella logica di 1940 o 50. Certo. E quindi tenendo conto che quel regime va sicuramente preso tutto in considerazione e grandemente valorizzato, ma implementato in un modo moderno, pensando a flussi di traffico, pensando a corridoi e non più a aree ferme, pensando anche alle grandi infrastrutture necessarie per la crescita, che non sono tutte, ma sono alcune infrastrutture che consentono di colmare il gap tra i porti del Mediterraneo e i porti del Nord Europa. Allora, Dardani, nell'ultimo minuto però, come se la stanno cavando intanto in questi ultimi dati degli ultimi mesi, quelli che sono noti, il sistema portuale italiano? Il sistema portuale italiano galleggia, stanno in tracollo i porti di transshipment tipo Gioia Tauro, Taranto, perché i noli marittimi non consentono più di fare un'attività di transshipment, e sta emergendo con prepotenza la necessità per i paesi come l'Italia di concentrare risorse su grandi porti che possano servire aree estese. Grandi porti, Alto Adriatico, Alto Tirreno e probabilmente un'area al centro dell'Italia dovrebbero effettuare questa operazione di concentrazione, se no sono fuori mercato. Va bene, allora noi abbiamo tentato di illustrare un'idea alternativa, per così dire, senza poter dire solo no, come fa lo Stato dicendo sono ladro, ma nel frattempo non chiedetemi di diventare meno ladro. Ci abbiamo ancora 10 secondi che sfrutterò fino alla fine. Ricordate che il sabato pomeriggio alla Fiera del Libro a Torino alle 19 c'è l'appuntamento con me per una bella trasmissione, ma per il resto vi devo dire solo a domani. Radio 24, la passione si sente. 9 in punto, la versione di Oscar.